Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Un delitto, la morte di un giornalista, un mistero lungo due decenni e ora un processo che si apre dopo 22 anni con due imputati e un contorno tutt'altro che definito. Anche questo è oggi il caso Mauro Rostagno, l'omicidio il 26 settembre 1988 del reporter antimafia in Sicilia, il giornalista che dagli schermi della TV privata RTC denunciava i boss e poi lavorava nella comunità Saman per il recupero dei tossicodipendenti. Dopo 22 anni a Trapani si è appena aperto il processo al boss Vincenzo Virga e al presunto killer Vito Mazzara. Il dibattimento metterà punti fermi e farà luce sui depistaggi, confida il procuratore aggiunto Antonino Ingroia, rappresentante dell'accusa, che in questa intervista a Storiacce mette in fila gli indizi, tratteggia le ipotesi, risponde sugli scenari più volte adombrati: il traffico di armi, il ruolo dell'ultimo padrino latitante, Matteo Messina Denaro. In questo processo noi riteniamo di poter portare alla Corte d'Assise di Trapani un quadro convincente che dimostri innanzitutto che il delitto Rostagno fu un delitto di mafia e che quindi Cosa Nostra trapanese decretò l'eliminazione di Rostagno perché comunque era un uomo scomodo per la mafia, soprattutto per la sua attività giornalista per l'emittente televisiva RTC dove lavorava. È per questo motivo che gli imputati sono il capofamiglia della famiglia mafiosa di Trapani e il killer, diciamo, di spicco della famiglia di Trapani. Dopodiché noi riteniamo però che non tutta la verità si riduca soltanto alla mafia. Diciamo che il movente del delitto non è emerso ancora in tutti i suoi contorni esatti ed è questa la ragione per la quale il dibattimento sarà un dibattimento ampio, nel quale verranno sentiti tutti i testimoni, verranno esplorate tutte le piste. Questo vorrebbe dire che la mafia potrebbe aver agito su commissione? Noi riteniamo che sia stato un delitto di mafia, ma non di sola mafia, che possano esserci stati altri interessi convergenti con quelli mafiosi. Nel volere il delitto e anche poi nei depistaggi o soltanto nella fase successiva, secondo voi? Io credo che i depistaggi siano un sintomo dell'esistenza di altri interessi all'origine, nel senso che abbiamo questi due imputati, ma probabilmente ci sono altri responsabili dell'omicidio che non sono ancora stati individuati e non speriamo che possa venire fuori qualche altro pezzo di verità in futuro, magari anche grazie a questo dibattimento. Lei ha ricordato i due imputati, ma l'esecutore materiale oggi a processo è uno solo e è stato ricostruito come gli esecutori materiali potrebbero essere stati tre. Sulla scena, una delle ipotesi che è circolata tra ricostruzioni giornalistiche ed ipotesi che sulla scena del delitto Rostagno ci potesse essere stato anche Matteo Messina Denaro, oggi l'ultimo grande latitante di Cosa Nostra. Lei cosa pensa al riguardo? Un'ipotesi, l'unico dato certo è che il padre Messina Denaro Francesco, Ciccio Messina Denaro, era a suo tempo il capo della famiglia di Castelvetrano, uno dei capi mafia in assoluto della zona. Matteo Messina Denaro era già operativo dal punto di vista delle armi, però non abbiamo elementi tali da poter confermare questa ipotesi. Quindi non è una, diciamo così, un'ipotesi che può essere esclusa, ma non ci sono elementi investigativi a supporto. Esatto. Ecco, procuratore, lei stesso ha ricordato tra i possibili moventi l'attività di Rostagno come giornalista. Si è parlato soprattutto di un suo ultimo scoop che non sarebbe riuscito a portare in luce, di una cassetta che anzi forse erano due copie di questa cassetta. È vero che erano sparite entrambe le copie? Sì, c'è una storia relativamente, uno dei tanti misteri attorno alla vicenda del Rostagno. C'era una videocassetta che Rostagno teneva gelosamente con sé, anzi aveva scritto su una di queste la scritta "non toccare Mauro" e non si è più trovata. Si trovava probabilmente dentro la sede dell'emittente televisiva, nella sua stanza, diciamo, nel suo ufficio, che poi è stato trovato aperto, la porta aperta, e non c'era più questa videocassetta. Una lacuna che fa venire in mente tante altre celebri, elementi importanti poi spariti dalle scene del crimine, dalle più famose, dall'agenda di Borsellino a tante altre. Ma secondo voi, nelle ricostruzioni che avete fatto, avete un'idea su che cosa cosa potesse aver lavorato Rostagno, che cosa poteva aver scoperto? Sono emerse alcune ipotesi, c'è anche un testimone della cui affidabilità però non sono stati acquisiti riscontri sufficienti, diciamo, che dice, che riferisce queste cose a un presunto servizio televisivo che avrebbe fatto Mario Rostagno, che avrebbe documentato un traffico d'armi fra la Sicilia e la Somalia, però non è emersa, diciamo, certezza in merito. Ricollegherebbe il delitto Rostagno anche con il delitto di Ilaria Alpi? E anche questa è una pista che è emersa, che abbiamo esplorato a lungo, personalmente me ne sono occupato, ho cercato un po', diciamo, di inseguire le tracce di questi collegamenti. Ma anche su questo abbiamo avuto degli altri testimoni che hanno dato indicazioni in questo senso, ma insufficienti elementi di conferma fino ad oggi. Però qualche elemento che va in questa direzione esiste, diciamo, oltre al test non completamente attendibile? Io, esatto, direi test non sufficientemente confermato. Sì, ci sono elementi. Il punto è che poi i processi necessitano di prove robuste, di certezze, non sulla base di ipotesi si sviluppano le indagini, quello che noi abbiamo fatto, perché a un certo momento bisogna tirare le somme e si portano alla sbarra solo gli imputati sulla base degli elementi certi. Certo, e sulla base degli elementi che avete già a processo, avete anche elementi acquisiti oppure pensate che possa esserci qualche testimonianza da acquisire anche a dibattimento che proviene dai fascicoli e dai processi per il delitto di Ilaria Alpi? Abbiamo a suo tempo acquisito qualcosa, noi per evitare che questo processo duri in eterno tenderemmo a non enfatizzare troppo gli elementi che rischiano di portare, diciamo, su piste non sufficientemente provate, però è un processo che facciamo non da soli, diciamo così, nel senso che partecipano anche le altre parti, comprese non solo gli imputati ma anche le parti civili. Probabilmente le parti civili insisteranno perché vengano sviluppate tutte quante le piste, mi sembra giusto che si faccia. Tra le parti civili c'è ovviamente la comunità di Rostagno, ci sono i suoi familiari, e a proposito dei familiari, nella prima parte dell'inchiesta, dell'indagine sul delitto, quando si parlò della possibile pista interna, cioè di un delitto maturato all'interno della comunità Saman, ci fu anche l'arresto dell'ex moglie e di un altro suo collaboratore. Quella pista, secondo lei, fu anch'essa un depistaggio oppure no? No, io non arriverei a parlare di depistaggio. Io ritengo che vi fossero degli errori, sicuramente degli errori, degli innocenti ingiustamente coinvolti, ma non era un'indagine fondata sul nulla, aveva un dato forte, e il dato forte è alcune particolari relative alla dinamica dell'omicidio che fanno ipotizzare che qualcuno che Mauro Rossegno conosceva lo abbia indotto, diciamo, a fermarsi o a rallentare nella sua corsa, agevolando così l'opera dei killer. Quindi l'unica intuizione che io ritengo fondata di quella indagine è che ci potesse essere qualche colonna interna, diciamo così, ma questo non significa però che si trattava, la pista interna secondo me escludeva la mafia, era sbagliata e così si è rivelata. Procuratore, la svolta che vi ha portato poi fino a questo processo è stata una perizia balistica, anche su questo adesso le chiederò un elemento, ma ci sono state anche delle dichiarazioni di collaboratori. Non c'è stato mai qualcuno che vi ha, in modo così, se è possibile usare questa parola, proprio di robe di mafia, diciamo, con una certa certezza, con una certa linearità, ricostruito la catena dell'ordine del delitto, al di là che lo volle Francesco Messina Denaro? L'indagine è partita da Palermo, è partita dalle dichiarazioni di collaboratori ed è partita nel lontano 1996, tra l'altro proprio io ho cominciato a occuparmene fino dal 96, quindi sono trascorsi quasi 15 anni. È un'indagine che sta accompagnando tutta la sua carriera. Quindi ci tengo particolarmente e mi auguro che arrivi in porto. Quelle dichiarazioni dei collaboratori hanno innanzitutto piano piano dato la matrice mafiosa dell'omicidio e hanno consentito di costruire la catena di comando interna quantomeno alla mafia. E quindi sì, il padre di Matteo Messina Denaro, ma anche la famiglia di Trapani, che poi è quella che ha gestito e organizzato il delitto, quindi appunto l'attuale imputato Vincenzo Virga, capofamiglia di Trapani. Sembrerebbe un coinvolgimento anche della famiglia mafiosa di Mazzara, in qualche modo, anche se gli elementi erano tali da giustificare una loro incriminazione. Poi niente di più, c'è stata una dichiarazione di un altro collaboratore, cioè Giovanni Brusca, che ha detto una battuta di Totò Riina, e quindi anche Riina era a conoscenza dell'omicidio, ma non siamo riusciti ad andare al di là. E poi questi elementi collaboratori che consentivano di dare un quadro di contesto non l'abbiamo mai ritenuti tali da poter fare il processo, e la svolta decisiva è stata i riscontri, possiamo dire, la dichiarazione dei collaboratori è venuta fuori da questa perizia balistica a cui lei accennava. Una perizia balistica che ha dimostrato come quella stessa arma usata contro Rostagno fosse stata usata dal killer anche in altri delitti. Ecco, ma il filo che unisce questi quattro delitti in totale, se non erro, è solo il killer in comune o c'è un senso tra questi delitti diversi? No. Il legame riguarda solo il killer. Killer che era uno dei più attivi del gruppo di fuoco della famiglia di Trapani. Si vantava di essere campione di tiro al piccione, se non sbaglio. E siccome grosso modo sono avvenuti nello stesso periodo di tempo, lui era un appassionato, diciamo così, di armi, è verosimile che tenesse con sé quasi sempre le stesse. I due imputati, rispetto all'accusa che loro mossa, hanno mai detto qualcosa oppure no? Assolutamente no, sono sempre trincerati dietro un ostinato silenzio. Nel giorno della prima udienza del processo c'è stato anche un corteo per ricordare Rostagno, un corteo in una città con un'altissima densità mafiosa. È un segnale importante secondo voi? Direi che tra l'altro Trapani non ha una grande esperienza di manifestazioni antimafia. Bene o male Palermo ha una tradizione più lunga di un movimento antimafia forte e tangibile. Appunto, è una novità. Sì, direi che una novità è una buona novità. I due imputati potrebbero in qualche modo avere degli elementi anche sulla latitanza di Matteo Messina Denaro? Beh, sì, certo, in teoria sì. Anche se sono detenuti ormai da un po' di anni, però insomma certo che potrebbero essere in possesso di notizie, ma non hanno ovviamente nessuna voglia e intenzione di comunicarle a noi. L'ultima cosa che le chiedo, Rostagno, l'uccisione di Rostagno, un giornalista, non il primo, questo delitto lei lo paragonerebbe di più a quello impastato o a quello Pecorelli? Una bella domanda. Beh, allora diciamo, è un po' più impastato perché comunque rappresenta una ribellione in terra di mafia da parte di una voce libera nella televisione, in questo caso anziché della radio. C'è un pizzico di, se vogliamo, di Pecorelli, perché probabilmente la mafia può essere stata strumento anche di altri interessi. Ci risentiamo in settimana con le inchieste di Storiacce, ma novità le trovate anche sull'audioblog di Storiacce e su Facebook. Ciao, a sabato.